Buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a un giocatore che in cuor mio mi sta. Spegne 65 candeline. Rolando Blackman. Buongiorno a tutti. Oggi saremo in co-conduzione, tu da remoto, io in diretta per il Move to Groove nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko. Mettiamo assieme quello che è un vero perché dopo quello che abbiamo visto allo scandaloso All-Star Game di recente passato. Io ribadisco, anche se sarò predicatore nel deserto e il solito Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento, ma visto che adesso vanno gli hashtag, il mio hashtag per quanto riguarda queste manifestazioni che non riesco a chiamare pallacanestro, chiedo: cambiategli nome, hashtag, almeno per decenza, decoro, cambiategli nome. Saluto il Rookie of the Year, Pietro Rossi, che oggi non può essere in diretta qua con noi, lo aspettiamo per le prossime puntate. Oggi l'apertura sarà dedicata a un grandissimo atleta perché aumenta la nostra Spoon River nel parquet celeste dell'altrove, dell'altra dimensione. Intanto saluto anche Lino, fan del Mood Groove, che ribadisce buone notizie dall'isola oggi. Io sarei curioso di sapere se Sor ha preso più voti degli indecisi a sinistra o a destra. Potrebbe anche essere stata una candidatura tattica, visto che il candidato di destra ha preso molti voti in meno della coalizione. Curiosità che rimarrà tale. Cose più serie, oggi comincio ad organizzarmi per Umbria Jazz. Bene, giusto, buon Mood Groove. Buon ascolto, Lino, grazie. Caro Paolo, Rolando Blackman, beh, nel cuor ci sta, perché ne abbiamo parlato anche la volta scorsa con All-Star Game degni di tale nome e appunto Confidence, ricordate la fiducia nei tiri liberi decisivi dopo le provocazioni di Isaiah Thomas, lo sguardo dritto, un sorriso e ripetere Confidence, baby, Confidence. Importante, un atleta che per me rappresenta tutti i sottovalutati, un atleta che non è stato capito, probabilmente anche eticamente non è stato capito, vedremo nella breve biografia che ne ho strutturato il perché. Un atleta assolutamente moderno, tanto più che l'unica critica che è stata portata ai tempi, ricordiamo che lui è classe 1955, viene scelto al draft del 77, è al secondo giro, è la 40ª scelta, quindi una scelta molto bassa, secondo me proprio per quello. Si chiedevano, ma insomma è molto alto, probabilmente troppo per giocare guardia e nello stesso tempo non ha la fisicità per giocare d'ala. Beh, lui viene definito dai critici, secondo me, né carne né pesce, perché non avevano capito che lui poteva fare entrambe le portate con grande gusto, con grande intelligenza cestistica. Sto parlando di Robert Keith Reed, che è scomparso di recente e, come vi ho detto, è stato uno, secondo me, degli atleti più moderni, è stato il primo point forward. Parlando delle caratteristiche tecniche, cioè un giocatore che da esterno poteva coprire tutti i ruoli e nello stesso tempo dare una mano anche a rimbalzo, visto 2,03 metri, la sua agilità e soprattutto una reattività incredibile per l'epoca, dove le cose erano molto molto molto molto più definite. È stato, per così dire, secondo me anche sottovalutato per questo, per l'estrema duttilità, pure troppo per l'epoca. Beh, di Robert Reid parleremo con due righe, che nella Spoon River, che va purtroppo ad arricchirsi nel parquet celeste, troveremo un approfondimento, perdonate, in questo caso molto tecnico, dedicato al campione, per me campione, degli Houston Rockets, Robert Reid. A lui un brano, Old Man Moses, alla chitarra Grant Green. Poi rientreremo a breve per alcune note tecniche di questo fenomeno che abbiamo visto anche in Italia a fine carriera, in quel di Desio. A tra poco. Hai detto tutto te, Willy. Forse uno dei più grandi sottovalutati NBA. Poca fisicità, poco atletismo, tanto sale in zucca. Era in grado di fare un sacco di cose e fatte bene, a mio avviso, quanto mi ricordo. Io la prima point forward che riuscì a vedere su un campo da pallacanestro. Questo portava la palla, chiamava il gioco, con il compenso andava anche a rimbalzo e difendeva anche bene. A me, in squadra, uno così sempre. Pochi palatifini hanno capito che è stato il primo point forward della storia, sottovalutato tanto, tanto quanto forte. Esterno totale, da portar palla con grande acume e disinvoltura, sia in situazioni di transizione o difesa schierata. Realizzatore, sì, con scelte precise, intuitivo e reattivo sulla difesa e sulle palle vaganti, presente a rimbalzo, presente nei movimenti senza palla, puntuale, passatore ed esecutore degli schemi, perfetto. Protagonista, con grande onore, nelle due finali perse contro dei Celtics imbattibili. Imbattibili per chiunque. Mette in difficoltà più volte il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, Larry Bird, senza alcun timore reverenziale. Discusso molto, e magari con le parole giuste cercheremo di parlarne, anche perché questo avrebbe un sospetto poter limitato la sua carriera. Discusso il suo momentaneo ritiro dal parquet per motivi tra virgolette spirituali. Ritorna sempre a Houston e giocherà ancora una finale. È il 1986 contro i Celtics, più forti di sempre, ma a livello totale. Seppure non più giovanissimo, è sempre fondamentale, spesso in starting five, in posizione di point guard, da portatore di palla, in una formazione dei Rockets strana, ma terribilmente affascinante e chimicamente solidissima. Lo vedremo in Italia a svernare per qualche partita a Desio, apprendo della sua scomparsa. Che la terra ti sia lieve, meritavi tanto di più, Robert Reid. Ha ha. Got It, Harold Housley al sax tenore ci accompagna in questa playlist che sarà interamente dedicata al Rare Groove. Finals 86, sbatti contro il muro delle finali, contro forse la squadra più forte tutti i tempi per singola stagione. Ne sono usciti tutti con le ossa rotte, ma soprattutto con la mentalità e il morale a pezzi. Ecco, Robert Reed è l'unico che ha tenuto botta, non è andato sotto. A discapito invece di giocatori molto più forti come Ralph Sampson in primis, ma anche Hakeem Olajuwon, che ci ha messo un bel decennio secondo me per riprendersi, per capire che quando giochi veramente con quelli tosti devi essere veramente di mentalità tosta, e quei giovani Rockets non erano ancora pronti e infatti sono stati letteralmente spazzati via. Solo Reed, in parte anche McRae, aveva tenuto veramente botte in quelle finali. Ma sai che tutto ciò, Paolo, potrebbe dare spunto di approfondimento anche per quanto riguarda l'apprendere nella sconfitta, questa parola che bisogna assolutamente esorcizzare. Nella vita e nella pallacanestro o si vince o si impara. Questo dovrebbe essere uno dei motti, chiamiamolo così, importante per tutte e per tutti. Nei contenuti del Move to Groove vi è anche questo. Alcuni atleti di quel roster degli Houston Rockets, tra cui appunto il già citato Rodney McRae, ha imparato tantissimo, era l'avversario diretto di Larry Bird, quindi figuriamoci per questo ragazzo quanta scuola in quelle finalissime 1986, anno di cesura tra l'altro, anno da lì in avanti certo ci sarà ancora grande pallacanestro e come, però come ben sapete inizia il virus Michael Jordan, un virus bellissimo, il più grande Michael Jordan, il giocatore più forte di tutti i tempi, da Michael Jordan in avanti, questo lo sottolineo sempre. Il 1986 sarà veramente un anno dicotomico nello sport, forse, e non solo. Quei Celtics che io non ho il dubbio, secondo me, allora mettiamola così, è la squadra più forte che io abbia mai visto giocare. Sarebbe bello magari farne anche un approfondimento, anche se lì bisogna mettere da parte l'emozione e parlarne di contenuti tecnici, emotivi, concreti, agonisticamente, conversando con le ascoltatrici e gli ascoltatori del Move to Groove non è certo immediato, però ovviamente quella formazione lo merita, e come gli Houston Rockets dell'epoca eliminano in semifinale e finale di conference all'ovest i Los Angeles Lakers con un tiro, se vogliamo fortunoso, di Ralph Sampson, ma arrivano loro in finale contro questa potenza totale dei Boston Celtics del 1986. Arrivano, affrontano assolutamente con coraggio, determinazione, ma come ha detto giustamente Paolo, lo stesso Hakeem Olajuwon, gigante della pallacanestro nell'epoca di normalizzazione, avrà insomma un fermo che non è stata una sconfitta, ma poi quello che sarà, come abbiamo visto, un motivo per imparare. When you hear this sound. We'll be right back. Willis Jackson, sempre al sax tenore, come abbiamo conosciuto Harold Owsley. Ho portato questi musicisti appunto perché sottovalutati, ma grandissimi nel groove, nel funky, nel mettere assieme sonorità accattivanti e nello stesso tempo con la ricerca per un hard bop jazz molto presente. La chitarra Jimmy Ponder. College professionismo era molto evidente, eh? C'erano giocatori, lo dimostra Chimolage, ma lo dimostra anche Patrick, soprattutto i lunghi, dove al college sembravano dei messia, cioè sono arrivati i nuovi dei del parquet, e invece poi hanno fatto una gran fatica nel loro inizio carriera. Poi naturalmente, siccome sono anche gente professionista, si sono anche ritirati su quasi in fretta, ma questo fa capire che il divario ai tempi era veramente, la forbice era veramente larga ai tempi, dal passaggio da scuola a professionismo. Sono veramente pochi quelli, veramente tutti i tempi l'hanno subito poco questo divario. Sì, ne abbiamo parlato anche con Adam Filippi di una differenza, tanto più dal povero Walter Davis, che in questo momento starà abbracciando Robert Reed, me l'immagino in un uno contro uno, che davvero, pensate, l'uno contro uno Robert Reed e Walter Davis, the Greyhound of the parquet, ora in un parquet celeste, da Adam Filippi definito giocatore da NBA a North Carolina, certo, ma già si presagiva una sua presenza come uomo da franchigia NBA. Per quanto riguarda il college è un discorso diverso, tutto ciò ovviamente anche viceversa, un fenomeno nel college. Beh, a me viene in mente anche Christian Lettner, per dire, presenza simbolica nel famoso Dream Team, un altro ottimo atleta che pareva spaccare la NCAA, e poi nell'NBA certo una presenza importante, ma di certo non a livello paragonabile alla sua presenza nei 4 anni di college. La sconfitta, che non è sconfitta ma è motivo di crescita, è uno degli argomenti, oltre che per i sottovalutati oggi presenti all'interno del Loot Groove e anche nella playlist che state ascoltando, sono protagonisti quello che è il Gators Groove con Willis Jackson al sax tenore, Jimmy Ponder alla chitarra. Poi nella seconda parte magari parleremo anche di una sorta di rinascita per questi atleti, e lo faremo in maniera specifica quando poi l'esperienza, la capacità, il talento viene affinato, viene portato grazie al lavoro, grazie alla consapevolezza, la conoscenza di se stessi, l'intuizione, la capacità di saper curare determinati aspetti in maniera importante, essere accompagnati anche da allenatori e da dirigenti che sanno curare questi talenti. Dopo aver appreso l'aspetto del o si vince o si impara, ora nella seconda parte vedremo magari quegli atleti. A Bologna ne abbiamo avuto 2 esempi, per quanto riguarda Sponda Fortitudo, di atleti che a loro volta in Italia poi, dopo campionati più che rispettabili, hanno scelto giustamente il percorso NBA, e altro che gregari, sono diventati protagonisti, anzi ne abbiamo 3 se vogliamo, per dirla in maniera più estesa in ambito Fortitudo. E quindi nella seconda parte, sbagliando si impara, e chi ha imparato bene, ecco, ne ha dato ovviamente una concreta prova, e non si può quindi più parlare di uno sbaglio, ma semplicemente di un percorso di esperienza. We'll be right back. sarebbe gli Spot. Però volevo presentarvi anche questo brano a proposito di sottovalutati. Walter Bishop Jr. alle tastiere per questo brano Soul Village, dove troviamo alla tromba il fratello di Michael Brecker. Eccolo qui, Randy Brecker. A tra poco, dopo la pubblicità, il Mood Groove. Altro grande sottovalutato è Randy Brecker. Jefferson alla voce, il brano lo conoscete, Chameleon, la scrittura di Herbie Hancock per gli Headhunters. imparare e non sentirsi sconfitti. È fondamentale, sarà retorica, ma nello sport come nella vita sapete che il Muft Groove questi aspetti li mette volentieri a braccetto. ...1969, anno di nascita, particolarmente fecondo. Beh, le coppie a quell'epoca si erano date da fare. Bene, quindi nella selezione al Palazzo dello Sport la Virtus in Udine in quell'epoca ha dovuto fare addirittura due giornate per selezionare gli atleti da portare poi nell'ufficiale formazione tra mini basket e propaganda. Siamo nel 1979, ovviamente, ragazzi, tra i 9 e i 10 anni. Beh, 10 anni, 1,73, magro come un chiodo, vengo immediatamente selezionato, mi innamoro da subito della pallacanestro, mi sento a mio agio, è uno sport molto bello, mi sento appunto coinvolto in questo sport. E che succede? Dopo i primi momenti di una faticosissima e nazista preparazione atletica condotta da tal Gianfranco Pilotti, un assassino, possa riposare, oddio, non esageriamo, però insomma sicuramente in questo caso in un inferno cestistico la sua presenza c'è, non ho dubbi. Beh, dopo una preparazione atletica nazista, per usare un eufemismo, ai ragazzi tra 9 e 10 anni con delle parole e dei contenuti allucinanti, i tempi erano diversi, adesso fortunatamente non lo permetterebbero, anche perché tutto ciò invita poi al bullismo, alla sopraffazione, ma non stiamo parlando di questo, ci sarà poi motivo, adesso stiamo parlando di imparare. Beh, vengo selezionato, vengono selezionati a sua volta 20-25 ragazzi, per cui la Virtus in Udine avrà due formazioni e ovviamente non si sta a commistionare, a guardare un aspetto equilibrato, no no, assolutamente competizione da subito. Mi sento preparato, sono il mio primo anno ufficiale, sono appunto, nonostante la sofferenza, l'impegno totale, carico di entusiasmo, ok, vengo selezionato per la Virtus B. Non sono nella prima squadra per quanto riguarda questi ragazzi selezionati nel B di basket, vengo assegnato alla Virtus B. Non dico che torno a casa in lacrime, no, assolutamente, sono sempre rimasto molto lucido, i motivi sono altri per il dispiacere, no no, assolutamente, anzi tutt'altro, molto critico nei confronti di uno che non riesco neanche a definire allenatore, ma piuttosto che un gerarca, per dirla in definizione più azzeccata. Vengo inserito nella Virtus B e arrivo a casa dispiaciuto e mio padre in maniera molto lucida mi disse: meno male, sono molto molto soddisfatto, hanno fatto la scelta giusta ed è molto bello tutto ciò. Oddio papà, sei impazzito, che stai dicendo? Sono nella Virtus? Ho detto dei tristi, pensate che stupido che sono stato. E lui ovviamente mi sgridò, mi disse: ma come fai a ragionare così? Sei proprio ottuso, sciocco e vanitoso. Intanto sei in quella formazione perché sarai uomo franchigia di quella formazione, sei in quella formazione perché sarai fondamentale in quella formazione, c'è bisogno di te, assolutamente devi metterci il massimo dell'impegno, non mi piace l'espressione farsi le ossa, ma di questo c'è bisogno, non di stare in panchina, ma di giocare. Quindi è giusto così, sono molto soddisfatto dalla scelta fatta dai tuoi allenatori. Così è stato, in effetti, anche se non un atleta, certamente per determinati aspetti indubbiamente illuminato. Così è stato, tanto più che alla fine dai due campionati, anzi dal campionato, perdonate, la Virtus B viene eliminata, ma alcuni atleti andranno poi alle finali nazionali all'interno di quella che chiamiamo a livello di mini basket propaganda la selezione di Virtus A. Ovviamente la mia presenza ci sarà. Questo non per decantare dei meriti sportivi, non si può parlare di meriti sportivi con questi livelli giovanili, così tra l'altro alle prime armi, se vogliamo. Però la lezione è stata importante, soprattutto la Virtus B era allenata da tal Gianluca Poca-roba e io a lui devo tantissimo, uno dei più grandi allenatori che io abbia mai avuto. Mio figlio è un campione, mio figlio deve sempre giocare in quintetto, mio figlio è in prima squadra, mio figlio è fortissimo, mi meraviglio come mai che non lo fa giocare, come mai che non parte da subito nello starting five, ma come mai, ecco, basta, non può giocare coi piccolini. No, guardate che è la risposta più sbagliata che si possa dare. Certo, se non si diverte, c'è da valutare il cambiamento, c'è da valutare, certo sono sfaccettature infinite, ma ricordate, non solo per un bagno di umiltà, ma soprattutto per non sentirsi sconfitti, ma per la capacità di poter imparare, determinati percorsi sono fondamentali, Momentaneo essere sottovalutato è importante, dicevo nella seconda parte vi farò qualche esempio e poi no, di certo la mia carriera molto bassa non merita di essere paragonata a determinati atleti, però l'esperienza personale chiaramente può essere molto utile, soprattutto se raccontata e diffusa a chi ha giovanissimi atleti in casa, anche se i tempi sono chiaramente diametralmente cambiati, ma tant'è, certi aspetti invece secondo me sarebbero da tenere presente. Detto questo, volevo citare alcuni atleti che dall'Italia hanno fatto motivo di percorso importante prima di passare poi a essere presenze costanti nella NBA. Li abbiamo visti in Italia a Sponda Fortitudo, vi parlo di Fred Roberts, il mormone Fortitudo in latte sole, che poi va a giocare nei Milwaukee Bucks, prima nei Boston Celtics, e gioca. Eppure in Italia, sì, ok, è forte, fuori ruolo, è un giocatore, sì, farà solo un anno, poi va in NBA ed è buono. Verne, tecnicamente duttile. Ne cito un altro, ancora se vogliamo esempio evidente, andrà a Seattle Supersonics, il taglio Eugene Banks, campione che arriva in Italia, praticamente giocava zoppo galletto a fianco del grande Artis Gilmore, vi dico di Vincent Askew, che farà mezzo campionato, sì, un mezzo campionato che lui interpreta in maniera molto particolare, perché già le sirene della NBA hanno visto la capacità e il grande talento. Ecco, Vincent Askew è un point forward. Ma l'esempio probabilmente più calzante di un giocatore che anche tanti tifosi hanno dimenticato risponde a nome di Pete Myers. Anzi, molti dicevano: eh no, ma questo è tristo Pete Myers, ma cosa baccagliate! Roberts non era stato capito qua in Italia, lui era un grande quarto tiratore, qua doveva fare il pivot del nostro canestro a prendere le mazzate. Ricordiamo Roberts, ho visto tra l'altro ieri una serie di Milwaukee contro i Bulls fine anni 80, ai playoff piazzava 28 di media in quella serie lì. Sì. Sì. Sempre detto che la mano è sempre stata educata in quel giocatore. Eschio e Myers. Giocatori gregari sicuramente, ma che comunque potevano portare anche dei punti e della solida difesa nel contempo stesso. L'esempio Pete Myers, il più calzante, beh, più che gregario, dopo anni in NBA, viaggiandosi da gregario, farà, pensate, 2 anni in Italia, e beh, in Italia, dai, e ritorna nella NBA quando Michael Jordan si ritira, il 93-94, mi pare, 82 partite giocate, 81 in starting five, con 8 punti di media a partita, 4 assist, una presenza con 4 assist e 4 rimbalzi in quintetto, giocando tutte le partite di regular season. Si parla a volte, no? Ah, è l'alter ego, è il Michael Jordan. Non si può ovviamente dare una definizione così frettolosa. E però Pete Myers c'era, eppure si era fatto un paio di stagioni in questo purgatorio. Direi che è l'esempio del sottovalutato che ha imparato. Ebbe la sfortuna di rimpiazzare Michael Jordan ai Bulls dal suo primo ritiro e la portò subito in quintetto come guardia tiratrice, mentre Eschio appunto contro i Bulls del rientrante Jordan si giocò le finals del 96. Mica male, insomma, come rientro. Ok, di rientro saremo domani con il Voltiamo Pagine. I contenuti sono stati questi per il Mood Groove odierno. Abbiamo fatto un po' tardi, ma raccontare, riportare, sapete, è un motivo sin dall'infanzia nonché adolescenza di tirare tardi insieme ad amiche e amici appassionati come con Paolo Onofri, che saluto e ringrazio, come con Pietro Rossi, che aspetto nuovamente in diretta al Breakfast Club nel martedì del Mood Groove, e voi, ascoltatrici e ascoltatori. Mi congedo con un caloroso abbraccio, vi lascio con l'EDP enciclopedico, domani puntuali alle ore 7. Ciao a tutte, ciao a tutti, servo vostro William Piana, ciao, a domani. Folks, I wanna thank you for letting me be myself again. Yes, I wanna...